Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ultimo giorno della settimana, primo giorno di febbraio, sono queste le coordinate temporali per chi ascoltasse Eclettica in diretta nel suo primo passaggio su Rock FM. Poi ovviamente c'è il podcasting che vi permette orari e giorni completamente diversi. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail a cui scrivere per essere iscritti alla lista nera o nel caso vogliate parlare direttamente con me. Nikki, il nome che finalmente demo alla mia seconda figlia, non è un'abbreviazione, è un compromesso al quale giunsi con suo padre. Paradossalmente, infatti, chi voleva darle un nome giapponese era lui. E io, forse per l'egoistico desiderio che non mi richiamasse il passato, insistevo per un nome inglese. Alla fine il padre accettò Nikki, pensando che avesse una vaga risonanza orientale. Nikki è venuta a trovarmi quest'anno, in aprile, quando i giorni erano ancora freddi e piovigginosi. Forse aveva intenzione di fermarsi più a lungo, non so. Ma la mia casa di campagna e la pace che la circonda l'hanno resa irrequieta. E quasi subito mi accorsi che Nikki era ansiosa di tornare alla sua vita di Londra. Questo era l'incipit di un pallido orizzonte di colline, di Kazuo Ishiguro. Thank you. got the whole room to run around in. You don't have to be near each other. What, you mean you're gonna let us out? What, and just roam free? Yeah, I might if you promise to behave. That means no fireballs, no explosions, okay? You have my word, my liege. Yeah, no problemo, Gigantor. Giuro che non ho fatto apposta. Non ho fatto apposta ad aprire con due gruppi che provengono entrambi dalla città di Vancouver. È stato assolutamente un caso. Me ne sono reso conto nel momento in cui ho alzato il cursore del microfono per iniziare a parlare. Si tratta di Hello Blue Roses, che ci siamo ascoltati con il pezzo intitolato Sunny Skies, e poi Lady Hawk con I Don't Always Know What You Are Saying, entrambi presentati per la prima volta la settimana scorsa in Eclettiche, quindi non vado oltre. Invece vi presento quello che è il prossimo brano, che è un esordio su vinile, grandi. Vengono da San Francisco, sono in quattro, si chiamano Lumerians ed esordiscono con un EP, appunto, su vinile. Corkscrew Trepanation è il brano che io ho scelto. Fun. Appare sempre più probabile che riuscirò davvero a intraprendere la spedizione che da alcuni giorni ormai tiene completamente occupata la mia fantasia. Spedizione, vorrei aggiungere, che intraprenderò da solo nella comodità della Ford di Mr. Faraday e che, a quanto prevedo, attraverso gran parte della più bella campagna inglese mi condurrà fino alla costa occidentale del paese e riuscirà a tenermi lontano da Darlington Hall per 5 o 6 giorni almeno. L'idea di un simile viaggio era nata, mi preme sottolinearlo, da una proposta delle più cortesi avanzatami da Mr. Faraday in persona, un pomeriggio di quasi 2 settimane or sono, mentre spolveravo i ritratti in biblioteca. Questo era l'incipit di Quel che resta del giorno, di Kazuo Ishiguro. no problemo, Gigantor. My name's Larry, first of all, okay? Jed? So I call you Jed, I don't call you Tiny, right? What's that supposed to mean? Hey, Teeny, how does that sound? I don't like it. It hurts my feelings. Okay, well, Gigantor makes me feel like some sort of freak, so, you know. I don't. I just call you Larry. Don't be a kiss-ass, okay? Start a family tree. Like a couple of words starting with the same letter. I want to alliterate with you. I want to sound clever. We don't quite fit. We don't really rhyme. But we got a good meter going when we grind. We slant to the beat. And we slant to the melody. It feels like we fit when we're dancing on MTV. You and I are meant for each other. A literary device. Along we're just but together we're lovers. I will miss. It hurts, but it's all worth the pain. Oh, if only for the little lovers. Hearts by my name. I love you forever. Oh, I love you forever. What I'd give to have spent these last 4 years together. You and I are meant for each other. A literary device. Alone we're just put words. Together we're lovers. Together we're lovers. Other.